amplificatori HF, capito? HF e VHF, allora ce ne sono che sono VHF e HF, capito? HF è tipo quello che mi hai dato tu, ti ricordi quello che mi hai dato tu ultimamente? Quello ZG, quello è un HF che ce l'ho qua dal fronte, lo sto guardando nel catalogo. E poi ci sono gli altri che dicono VHF, quelli sono diversi, era per cosa, per tornare al discorso di Luca di prima, di quello che stava parlando Luca. No, quello che ho trovato io è praticamente fa 0,30 l'amplificatore, quindi lo puoi usare anche in HF. Però è un lineare che puoi usare anche in 27. Perché non è decametrico, praticamente cosa vuol dire? Che ha la banda passante che è unica, 0,30. Quelli che usiamo noi, quelli che uso io, come quello che ho, è proprio decametrico, ha le bande sue, quindi 10, 15, 20, 40, 80, in 27 non funziona, capito lui? La stessa cosa quelli per le VHF non funzionano in UHF, quelli in UHF non funzionano in VHF perché hanno la banda singola, mentre quello che hai tu ha la banda passante, da 0 a 30, quindi si può usare anche in HF, con potenze minime però, perché quello di potenza c'ha 5-10 watt, quello che c'ho io c'ha 100 watt d'ingresso, da 0 a 100 watt, e quelli sono i lineari HF che si usano da 0 a 100 watt per prendere tutta la potenza della radio, capito? Positivo, no, li stiamo guardando qua, è un dipliano, ha detto ma che differenza ci sarà, ha detto forse ci vogliono questi VHF, capito, guardandoli bene e sono diversi da quegli altri là, dai. No, era solo per sapere questo, solamente questo chiarimento, da tutto qua. Dai, farti buon proseguo della serata che qua stavi andando e poi ti stiamo trattenendo. Ciao Claudia. No, no, sono in frequenze amatoriali, niente particolare. Sono nella frequenza di Sassari, in unico, in VHF, poi sono in 40 metri con degli amici del continente, niente, ma vi stavo seguendo da poc'anzi perché ero in 10 metri, ho girato, siccome questa è una frequenza alta, ho girato e ho sentito Luca e allora sono passato a salutarli. Tra l'altro non sto neanche andando con la Mantova, sto andando con un dipolo full side che ho comprato anni fa in fiera, non l'avevo mai piattato, ed è per i 10, 15, 20 e 40, quindi 10 metri, essendo in 11 metri, mi accorda tranquillamente col 430, qua con la T250 e allora mi dà la possibilità di entrare a salutarvi, altrimenti manco sarei potuto entrare. Sei sopra il più qua, sei sopra il più, oltre non puoi andare. Perché è una direttiva questa, capito? È una direttiva a due bracci da 27 metri, c'è un boom di 27 metri, prende tutto il palco. Non l'ho sollevata, è bassa, è 4 metri, proprio per non avere problemi, ma è 27 metri, è un boom di 27 metri. È un'antenna a 4 bande, si chiama appunto dipolo full side, ed è a un braccio sicuramente perché è a 100, c'ho il rotore, ho il rotore qua, te lo comando da sotto, c'è il nord, si sì, sta girando, ecco se si è fermata, ecco è a nord est 180 gradi, quindi probabilmente ti prende un braccio ti sta prendendo di riflesso a te verso il porto torres perché c'è la punta verso la Ginara e allora prendi ottava per quello che sto arrivando così. Oh, anch'io ne approfitto a salutarvi, dai Claudia, che anch'io se sono quel po' qua giù e niente, dai, fate buon proseguo la serata Claudia, no, per il resto non ti preoccupare, già c'era una cosa urgente, capito Claudio, quando comunità non ci troviamo già facciamo il tutto, dai, non ci stanno problemi, salutando anche a Luca e a Benito, dai, anch'io chiudo le trasmissioni, me ne vado su un po' a casa a vedermi un po' di tempo. Ciao Claudio, ciao Luca Rieche, ciao Benito, riprendi tu Claudio per i saluti che io poi chiudo. Ciao Gigi, un abbraccio grande, quando vuoi, ciao. certa nuova e poi mi farò dire il tutto, dai, va bene. A più tardi, alla prossima. Mi ci rimasto bene. Ma tu non c'è altri loro da anche. No, non ho capito cosa stai dicendo. Non c'è a me, cosa hai detto? Ma che io? Ehi, non c'è a me? Giulio allora, ma tu quanto sono a stare gamba? Sono molti di chiavo. Non so, ma non lo so, so come è quasi a zero, Tutto vediamo, certo, non ho capito niente. Sono già basso, non posso mettere così. Aspetta un attimo, devo fare una cosa, aspetta, Allora, su internet. Allora, aspetta. Che c'era? Quello che ci 60, che è nuovo, ha detto. Perché se è, metto d'accordo. Io mando un'email, se lo ottiene. Ma chissà domani, ma arrivano su di me conto. No, no, no, fa mettere via altri microfoni, no. Ci vuole su e buono, non. Poi se la tengo. Perché se vuole mi chiama, ma la vuole faccio il tappo e gliela spedisco, ma se non ha chiamato. Cosa gli spedisco? La radio senza. Dove deve fare la ricarica post play. Poi una volta che fa la ricarica io gli mando la radio. Se no, ma sarà una gallina aziendale. Se vediamo, aspetta un attimo, vedo un'occhiata se c'è ancora quel. Come ci si assalta su eBay. Mario, me lo risonte, ah, sì, ho tornato, sì. No, ormai non c'è più, ha chiuso. Ah, credo non c'era ancora. Adesso controllo, aspetta un attimo, pezzi imbattibili. Che cazzo, no, sto qua, no? Vediamo un po'. Ma tu non c'hai internet, Beni? No, non ne ho. Ma il vieto non ci arriva, è giusto? No, non ci arriva, qua solo col pennino, c'ho il computer, adesso tutto a posto, tutto fatto, mi ho fatto una camminsolina proprio per metterlo, e niente, la pennina. Ah, ho capito. Allora, aspetta un attimino, vediamo un po'. No, questo qua diciamo che va bene, non c'è problema. Va bene questo computer, il problema è che c'ha l'entrata dei jack che non sono un po' mangiati, molte volte neanche si sente, cioè devo muoverlo un po'. Ne ho detto che si può aggiustare, adesso appena c'è qualcosina in mano, ne ho comprato il computer, vediamo un po', senza spendere molto. Questo parametro lo spedisco, ma poi ci metto la posta, è nuovo, nuovo, se io messo il disco da 3,20, poi c'è un giga di RAM, un giga metto di RAM, lo metto a 2, per una bomba. Finché va lo tengo, poi non va più il cellulare. E ha l'hard disk che c'avevi prima? Ho detto, l'hard disk che c'avevi prima da quant'era? Da 80. Da 80, qual è? Quello con le puntine, diciamo, dietro, o è quell'altro nel castro? Quello nel castro, si chiama, aspetta, c'è un nome. Meglio, ma diciamo qua, l'ho rotto, no, qua c'è roba mia dentro, questo qua con la puntina, la 40 questo qua, aspetta un attimino, sì, 40 giga, praticamente devo comprare il riduttore, c'ho molta roba qua dentro, l'altro è, adesso mi ricordo, c'è un nome, comunque è di quella in casso, dai, contatti, no, ma se sono la punta, Sì, ho capito. Ma io ne sto cercando uno per vedere se va, ti ricordi che l'avevo detto? E ce l'ho là, però c'è l'hard disk rotto. E voglio provarne uno per vedere se funziona, se non c'è altro quello là, capito? Cosa ne ha, a Franco, ha detto a uno, se ne ha lui a tanti, che io non ho accorto, la volta me l'ha fatto lui, l'aveva fatto un rubaga. Ma poi qua dentro c'è roba mia, lo devi formattare prima, capito? Beh. No, è la Franco, è già suo marito, sta vedendo. Magari non c'è il numero. No. Ci avviene sempre usati, allora, amici 70 a chiuso, vediamo, facciamo un'altra volta. Sì, c'è ancora. No, un par di balle. No. No, cazzo! MC60, microfono sobremesa. Original, Kenwood nuovo, della Spagna. Vuole 198 euro più 30 3.000 di spese. Cazzo. Sì, sì. Non c'è una cosa in banda che ti ogni tanto copre. No, no, papà, sei pulito tu. Oh, fai la voce di donna. Dice, poi c'è, ma sto qua, lo stesso, mica povera a cavolo, da Kingwood, eh? 157 euro più 15 euro di spese. 57, 167, 170 euro fuori. Cos'è? Un invece 60? Sì, ah. Stavo regalando macchine su subito.it. Vediamo un po'. Sì, ogni tanto la metto. Vai da vedere, c'è una scrittura. Ma è la di Claudio, il peggio, la fiammata, ma vai, peccato, ma io ce l'ho soldi. Mi sa da prendere un chiccio motore che è la fine del mondo. Poi la nuova nuova, ma veramente nuova, l'intero fiammanti, vai, ci andiamo al negozio. Dopo tutta bene, poi Claudio la sarà che la tiene bene, non pigliamo ondezza. È la fiammante, ma. Cioè, o Citroen, buono a me, no, Citroen. Ma è tu più. L'ultimo era la Citroen. C'era la blu, c'era la blu, c'era la macchina in macchina, ma c'era tu nuova, conosciuta la macchina. Sarà fiammante, nuova, nuova, ma nuova veramente, tutta veramente bene. Vediamo un po'. Macchina regalo, Sardegna. Piccola utilitaria, 300 euro, qua non c'è foto. Poi se c'è una macchina ti interessa venire a voi, la Ferrari 355 F1 Berlinetta, leggete i dettagli da 98, vuole 67.000 euro, ti interessa? No, la macchinetta non è lo su nulla. La Ferrari è. Ehi, cosa vuoi che sia? Cazzo bella, nessua. Ma. Ma non la marcia la macchina? Sono le marce automatiche. Allucinante. Ma tanto che sei cilindrata? Allestimento, eh? Allora, spendi la Ferrari 351, eh? Del marzo 98, tagliando completo già effettuato, a seguire il dettaglio, modello doppio airbag, cambio F1, l'auto ha solamente 32.000 km, completa di pelle originali, più valigetta, doppione, chiavi, porta documenti in pelle, originali con libretto, manutenzione italiana, ma quanto gatte di cilindrata, qua non ci compenso. Potenza, 5, come non metto la cilindrata? Andrea? Come trovo la cilindrata? C'è testazione Kicks, 2000, cinghia, audio. Ma c'è la cilindrata, quella buona non è. Quanto sarà la Ferrari cilindrata? 5.000? No, di meno, sarà un 3.500, 4.000. No, Fricco! Allora, 3.55 vuol dire 3.500. Ecco, buonasera, qui Alfonso che fa chiamata dalla città di Bari, che la fa? Sembra di qualcosa di Bari, anche di Alfonso. Che fa, dalla città di Bari, senti qua. Io sono creduto, eh. Anche io. Ma che stai parlando, guarda, sto parlando Bari, avanti Bari. Quindi nella città di Bari stai arrivando una bomba! Santiago 9:30 Radio 5, cappa! È positivo a Bari, 4 segnale, 2 radio quasi non si sente. Allora, aspetta, ho sbagliato, scusa. Tuo segnale, la tua radio è 9 più 20, segnale 2, avanti Bari. Ma cappa! Quindi la nostra bene! A me stai dicendo? Ma capa! Carta, città di Bari, non ho mai collegato, guarda. Comunque anche tu stai arrivando bene, eh. Santiago 9, Radio Nasina però. Ma capa! Ok! Io ti sento qua, poi sei molto forte, eh! E sì! 9 più 5, capa! Ultimo, sono contento! copiati. Ma che fa? Ok, non ho capito chi sei tu, chi sei? Saluttore, è Torre Miscela qua, Miscela Torre per gli amici, avanti. Ma Torre Miscela, sento un amico che c'è un po' di USB, c'ha. Un po' di USB. Ehi, allora che c'è ancora la mia lanterna, occhio. Ma che fa? Ok, voglio. Ok, dai, la faccio da poetare. E sono mezzo napoletano e mezzo parese, lo sai? Che contagio! Sai che sta bene? Un amico, da dove chiami? Iaia, che gente. Che chiami, l'amico? Hai detto la voce tua, senti, parliamo sopra a me, eh? Hai finito di rompere, però me. Vai, parlati qui di nuovo, è altro segante. Buonasera a tutti. E anche voi sapete di tu, ma... A tu, a tu! Oh, iaia, e beh! Buonasera a tutti! E allora? Mi è sembrato Benito, mi è sembrato l'altro. Ehi, da solo io! Mongoli! Buonasera, non l'avevo riconosciuto! Ma con la voce così, no, sinceramente! Però stavano a disegnare! Quanto mi hai vinto qualcuno, anche? Allora, buonasera. Buonasera anche a te, buonasera a tutti. Perché la propagation? E un monta. Chiappa, e lui non venne. Avanti Luca. Propagation. Aspetta un attimo, sta entrando qua. Ah, ok, no. Chiappa. E allora? Che si dice? Si dice nulla di che. Aspetta un attimino. Comunque va adesso. Non so se c'è la batteria a scarica, ma sto cacchio di microfono. Una bomboletta è lunga. Dico sopra la batteria tu, va bene. Cosa? Aspetta un attimo. Però stavo dicendo, se è troppo alto questo microfono va bene. Va benissimo. Va bene, andava. Però meno a me piace. Ehi, andiamo bene, già sto ascoltando. Gappa. Ma chi è entrato oggi? Chi è entrato? E ci mettono la sogra, aspetta un attimo nel volmut. C'era giù la sera. Poi c'era stato Claudio poco fa, Luigi Vulcano, poi c'era Mario, Maurizonte, e poi non mi ricordo, boh, chi c'era l'altro, mi non so, c'eri tu e parlavamo loro. Vabbè. Senza sentire a Giulio, ok? Vabbè. Sì, c'era anche Pompogno, poi c'era Bulldozer. Tutte cose, dai. Pagava. Vedo Gulambe. So Gulambe senza intendirlo, ok? A Giulio. Anche a Massimiliano. Si è fatto Bintindic. Poi di dove è che sono tutti in giro? Sì, a un gioco, io. Ciao. Senti. Che è, Benny? cazzate, ma Alan Stendhal mi pare, boh. Sicuro, stai andando una cosa del genere. Quindi ho tutto capito, no, ma piano, ripeti. Aspetta, ho toccato il volume. Ho detto stai andando una cosa del genere, non lo ricordo il nome. Allora, ho scaricato, qua c'è scritto Brian Adams. Brian Adams, ecco. Se vuoi cominciare, che strano. Non so se è lui, ma... Sì, sembrerebbe lui, può guardare molte canzoni però che fanno, le imitano altri cantanti, non sono loro. Ma se ne conosce uno che da qualsiasi brani non si muove. Sì. Una padrona, mamma mia, hai fatto il giamore antico io. siamo nel 2012. Ma quasi nel 2011, caspita, è ancora... Io dico, si ascolta, ma caspita, è sempre con un mattissimo silvestro. E anche qualche altra cosa da ascoltare. Se è femmina, guarda, sono tutti precisi, sono prima che si canzava, forse. No, già è uomo, già. Allora, non te, mi gugnardo, gli 883, te qua. Ascolta trattore, metti una via uno in occhio, sempre il triangolo nord, il carrozzone, l'altra come intera, senti che si canta il Renato Zero, da due girava un altro e torna in un mattesimo silvestro, una rottura di balle qua. E poi ti scoccia quando l'ascolti troppo. Allora, spiagge, cioè sempre, ma cosa vuol dire stare anche... 3 o 4 ore con la matrice canzona. No, così no. Sì, a quelli fede, guardate tutto il volume. Tanto mai che il tuo canto per il da capo. Vabbè, già era per il, già si sapeva che era per il da capo, ma. Sì che va via. Che morbo strano. Vabbè, si chiama sempre molto sinistra così. Stava sempre ore, chissà, spiagge, l'altro triangolo no, da voi venerà una, tutti i canzoni di Renato Zero, da voi sta per un poco, un mattesimo diverso, chi si più vecchio, chi si che era in città di prima. Era appassionato alle canzoni vecchie. E un po' di tempo fa lo faceva, sono qua. Sono ogni rottura di palle. Soprattutto la domenica. Ma il positivo è chiamato Roger. Ma cappa. Oh signori, io vi lascio là, e c'è mio figlio vuole giocare. Minori. Ehi. Solo nai. Uno. Kappa kappa. Ehi, fallo giocare, Marco, sai come sei? Sono piccino. Ma non faccio, non ho l'occasione, era una cosa per la domenica nel gioco. Kappa, ehi, vai, non c'è problema. Ciao, ciao Lu, ciao Bomboli, alla prossima. Ah, ciao, ci risentiamo, non c'è problema. Ciao, vieni, a più tardi, ciao. Kappa, ciao. Ciao. Anche di quelle tipo modello come ce l'abbiamo noi, perché sono delle macchine che vanno bene, poi se devi comprare un pezzo costa poco e no, non ti avventurare in macchine tipo giapponese e cose strane, altrimenti da poi andare a comprare un pezzo mi fa il bene. Ma guarda, per carità. Vediamo, qui ci guarda. Ho visto delle belle 600 dalla Fiat. Noi hai una nuova, c'è una bianca, c'è una ragazza. Adesso vediamo un po'. Se riesco, perché tu costa 2000 euro, più passaggio, più assicurazione, più bollo. Categoria di 5000 euro mi va. Scappa. E vabbè, se riesci a trovarne anche qualcuna di meno, già va bene. E macchine così, dico, guarda, ti conviene prendere macchine così. E cazzo, secondo la macchina Vigli o Ioia, e quelli lì sono tutte macchine che vanno bene. Tipo, però la 600, ti do un consiglio, prendila almeno 1000. Queste 900 sono un po' così così, vanno bene, però sono un po' così così. Devi stare ogni tanto, devi controllare l'olio, consumano un po' d'olio della pace. Non so, se vediamo tu. Vediamo un po'. Vediamo, ora. Ma quelle volte non sono d'estate, boh, di inverno, non può fare su un bidone di moto, va, così. Poi se Dio vuole, che mi chiamano qua, speriamo. Quando c'è la macchina si può organizzare meglio anche, perché riesce un lavoro, pronto, vai, subito. È diverso. Io lo so. Tanto la macchina puoi fare tante cose. Però tu mi puoi parlare su una parte, poi ci vuole fare un giro a posto di una, ma devo lasciare una stintina a farmi un giro, se a fare il motto, poi c'è la macchinetta. Quindi l'organismo, mi sono fatto il permesso per andare a pescare. Quindi l'organismo, non è pure, ma non devo andare a pescare per i fatti miei. E non arriva la mia rientro. Scappa, soprattutto per... se ti capita un lavoro, per esempio andare a Tizi, andare... Cioè, quelle 50 euro prendi e te le fai, non è che stai lì, non è che te ne stai, no. Figli e fatti. Poi ti fai, sono pochi minuti di macchina, a sorso. Ti piace un lavoro così per dire, vai te ne fai. Perché chi c'è 50 euro te li fai, giusto qua. Ma pagate la benzina, la cosa, cioè. Hai capito? Sì. Posso. Infatti benzina, poi mi ci va a portare anche lunedì là. E adesso vediamo. Prima non me ne esce al tuo. Che cappa. Tanto. E va alla fine ci vuole. Non è che. Dico. Posso, non so così. Oh, yeah. Adesso vediamo, già ne esce. Sotto un attimino. Aspetta, certo. Sara. Vabbè. Yeah. Non si è sentito a tu. Non ti do informazione, mannaggia a lui. L'altro giorno che non lo sento, guarda. Poi ho chiesto l'informazione. Entrerà. Detto, entrerà sicuramente. Non lo so, perché ieri mi stava chattando su Facebook. Per sentire la domanda, ho chiesto l'informazione, Gianni. Parito. Poi c'è la cosa urgente. Va bene un po'. forse ne sa qualcosa lui. Se ne sa, va bene, siamo pazienti. Sto così. Capito un informativo. Allora, roba di becca. No. Tutta la musica. Io tu quando ero, da lui. Gabba. Si lascia appena rossetto già. Mi sa che si spostano. Boh, lei dice al 10 con 21. Andiamo. Tu vuoi andare a 5? No, boh, non lo so. Io l'ho tutto per voi andare. Però ne sul 10, te lo sto già dicendo. Vai a 5. No. Thank you. cambiato, gli ho cambiato. Meno male, meno male. E allora, ma con la cuffia sì? Ah, con la cuffia solo. Oh, io ho il gonfiatore. Se ti senti gonfia ancora, io ho il gonfiatore, ya. Ti posso gonfiare io, No, mi sgonfi, tu sta tranquillo, ce la vuoi sgonfiare, cosa rende, Intesato, dipendi, quello che disegni. Già il tempo, ya. Ya. Una sera, se vuoi un po'. Allora, come andiamo tutti? Allora, sta a casa Giovanni, non si è andato in campagna a piena tutti un peschetto. Stava bene fino ad altri giorni, oggi, boh, anzi da ieri così. Vento, freddo, carità. Adesso è andata a crescere più di prima. Microfono usato. Usando l'Intec M500, microfono da tavolo, dove c'ha l'eco. Buono. Sì, non è bello. Più che altro lo sto usando per ogni tanto con questo qua, o con l'altro. Non mi piace il microfono da tavolo, mai mi è piaciuto la dritta. Oggi è buono, più o meno c'è una modulazione come questo, cioè, come questo apparato, dai. E devo pigliarmi adesso, se domani l'esaurito mi dà i soldi, me ne vedrà domani sera, mi compro un microfono proprio di Gianni e così me lo piatto a baracchino, c'è un microfono come si serve. Giappa giappa. Questo non è un microfono, questo è lui, non è un microfono, questo è l'apparato. Non ho capito, c'è un microfono? Questo è l'apparato, è lui che sta lì come, perché lo posso escludere col tap e tutto. E il microfono, vabbè, il microfono è 1000 ohm. Però l'eco ce l'ha proprio lui integrato, capito? Il microfono è originale Intec. Ah, è bello, però sì. Però allora io voglio mettere un bel microfono a testo, non al 2009, perché non c'ho quello F10 che è stato sgangherato, non serve a niente. E mi prende un po' il culo lasciarlo così, c'ho la panica come serve, ma voglio il microfono. Almeno adesso mi metto il microfono nell'apparecchio su e a posto. Almeno non va. Adesso mi metto il bar. Aspetta un attimo. Così, non ho fatto, 1, 2, 3, così siamo 30. Siamo a te. Avanti domani. Andare, ciao, ho lasciato così. Ho un problema, mi sono accorto l'altro giorno di questo apparecchio, è una cosa strana. Dopo che l'ho acceso un'ora e mezza, incomincia a scaldare la scatola del frequenzimetro. E sparisce un coso del display, quindi in pratica c'è qualcosa che non va, ci deve essere un stabilizzatore che dà troppa tensione alla frequenzimetro, quindi ogni tanto i LED sembra che siano bruciati, invece non lo sono. Adesso infatti devo controllare uno di questi giorni a vedere cosa diavolo è, che qual è questo stabilizzatore, così lo cambio, dovrebbe essere di tensione stabile a me. Ascoltando, vedo come sta uscendo. Sì, ragazzi, poi ci sentiamo alle prossime, stammi bene con tutto, con quelli. Allora, Antonio, adesso controllo la tensione, questa giccia, vedete che quando scatta la tensione è cosa. Sto contando questa gente.